all'ascolto. Marco Condor, ci sei? Trafugando ci stai? Già, trafugato. Non c'è nessuno oggi da Parì. Tutti morti sono. Bobo. Lì Marcolino è entrato già. Ma perché c'è Gianni qua? Io non ho sentito nessuna chiamata. E adesso dovrebbe entrare Gianni doppio room. Ah, ma era fatte su altre frequenze, diciamo. E allora? Eravamo un bel in alto. Giusto, voi ci siete? No, mia Gianfranco, mi. Buonasera, ben sentito. Buonasera, buonasera. Insomma, l'unico che c'è è sempre costante, anche se l'ascolto, sono io per rispettare la tradizione. No, io la verità ce l'avevo spento. Ero con Gianni su Messenger, mi sembra che fosse. E stavamo parlando lì, però io ce l'avevo spento. E fate questi che riguarda vedere se c'è il lupo grigio. Gli ho detto a Gianni, infatti tu non l'ho chiamato il lupo grigio, però l'ho chiamato a Marco. Marco, ebbè, colazione è fatta. Ho finito quarto d'ora fa, dai. Colazione, ci siamo quasi comunque. Stavo leggendo roba su internet, di serie TV, pareri, cose, sono per passare il tempo. Visto che. E questi fischi. Ah, no, no, stanno provando il CW. Da frequenze vostre su. Sì, non mi ricordare le serie TV che ho avuto la delusione di aver seguita una che era molto molto bella veramente, e poi sono andato a leggere quando è la terza serie, cavolo, e non la fanno, non c'hanno più soldi, ma te ne immagini? Che serie era? Non c'è la Survivors? Attenzione, binario 10, cambio. Ciao Gianni. Buonasera a todos, come andiamo ragazzi? Molto emozionata la giornata, c'è Natalino, c'è Gianfranco. Ho detto già, ti volevo fare la battuta, levati quel bip che ti dà un'aria di senso, di superiorità, te lo ricordi chi lo diceva? Break per la rosa verde, gatta. Doppio rotto, togliti quel bip che ti dà un senso di superiorità. Passato la buon'anima, cura voi, sa che l'ha tagliato Rugau. Ah, ma parlava così con quell'accento che hai fatto tu? Quella parlata lì aveva? Lo sapevo, sì. Vediamo Gianfranco se è ricordato la serie. Gianfranco, che serie era? Marco Polo, quella che dico io, però si sa anche quella che dici tu, che se non sbaglio era qualcosa, Pietro Sutherland, quello, il figlio di Donald, se non ricordo male, faceva il presidente, forse quello su vivo, quello di... Ciao Gianni, buonasera, sai già che non ti dico ben ascoltato, perché... c'è quello a fare. Cosa volevo dire? Non me lo ricordo più. Sempre lì già. Ciao Gianfra, perché non ben ascoltato? Che problema c'è? È la radio, sempre la radio. Usando i nostri termini ti darei 1 su 5. Io vabbè. Ma è solo una tua prerogativa però. Tutti gli altri mi dicono che è una radio che esce molto bene questa qua e tu mi dici che mi dai 1 su 5. Ma vabbè, è una questione di gusto, va. Perché io c'ho lei che a te non piace, io lo so già. No, è questione di volume forse, che Gianfranco usa quegli apparecchi particolari e quando la modulazione è troppo larga tende a strappare o giù di lì. Non so che apparecchio abbia adesso. Ma noi siamo in 27, siamo parecchi per la 27 qua. Guarda, sul portatile per la 27 non lo sento quasi, wow. Poi riguardo al giudizio, purtroppo io ho a che fare con la parte professionale. locali, cioè purtroppo meno male, ma anche qualunque baracchino è una cosa fissazione quello, capito? Poi per fare male tanto del spettro ti metti le mani in testa, al posto di essere 10 vai a coprire un canale e mezzo, due canali. Cioè, quindi non parliamo dei giudizi degli altri, se i giudizi degli altri sono tecnici mi fa bene, ma tecnici bravi. No, aspetta un attimino. Se tu esci con apparecchi non adeguati a questa frequenza, è normale che non mi senti bene. Natalino, come mi ascolti qua? Io con l'eco. Vabbè, l'eco c'è, per forza l'ascolti. Ma la modulazione è chiara. No, non metti l'eco, sì. Se metti l'eco è tutta... diamo fai. No, cioè, ci sono quelli che non gli piace l'eco. E quindi ti dicono che non stai uscendo bene. La radio sì, cioè, è comprensibile, non è che, perlomeno con questa scatola di cerini che ho io, poi se uno ha un apparecchio più serio è una cosa diversa. Qua la modulazione è eccellente, ma questo apparato è di bocca buona. Tranne le FM, in FM se uno è largo di modulazione strappa subito qua. Scusate, ma allora come si spiega che sia Natalino che sia Marco, anche come voce c'è una radio perfetta, non riesco può dire niente, eppure non è amplificata, non è niente. Ma sentirete qualche rumore perché stavo spostando il microfono, non me ne sono accorto. Natalino lo stesso va benissimo, nonostante ci abbia la voce un po' rauca, eccetera, però è perfetta, niente a che vedere con la tua, ecco. No, aspetta, no, aspetta, se io sto uscendo come c'è Natalino ci butto tutto. No, no, no, Marco, la tua è sempre stata ottima. No, perché per Natalino si sente che è un po' barattolato, è un po' basso. Questo nonostante siamo legati è un po' fatto niente, vabbè, tutto lì. Allora, a proposito di quella serie TV, stavo leggendo proprio poc'anzi che era una delle serie più mal riuscite di Netflix, non ho capito il perché, non sono sceso in dettaglio, però Marco Polo l'hanno tagliata, vabbè, si dice per mancanza di fondi, però non ha reso, dice che sembrava una brutta copia del Trono di Spade. No Marco, no, è solo una questione di soldi, una cosa se la guardi tutta la seconda serie è molto bella, anzi è solo che come tutti quei tipi, tipo i medici, quella roba lì, no? Di quell'epoca. Ora. Poi devono fare effetti speciali a gogo e quindi i costi sono altissimi, capito? Solo che uno lo segue, non lo sa e poi ti fanno queste cose, capito? E quindi è seccante quello. Tutto lì. Avanti Natali. Io mi avevo comprato uno di quei, come si chiama, di quegli affari da attaccare alla TV, e per vedere che però me l'ho subito attaccato, lo sai perché? Perché dopo se mi lasciava anche a così. Ho capito Natali, che cosa ha attaccato alla TV? Come si chiama quel decoder che c'è tu Marco, a fan guarda che... No, la TV box Android. Natali, ma quello non è mica... Cosa c'entra? Quello serve a vedere siti in streaming, ovviamente legali, possibilmente visto gli ultimi sviluppi, oppure file scaricati, ma il problema è nei file scaricati, non è nel lettore, Natali. Eppure dicono, cioè nel senso io ho temuto, e se vengono a controllarmi mi si attaccano a questo adesso, infatti non l'ho attaccato. Vabbè, tralasciamo il discorso che poi anche in quella cosa fanno figli e figliastri, dai. Se dovessero sequestrare tutto che non è c'è a tutti, lasciamo stare, è che fanno figli e figliastri. Vai Gianfra. Sì, ma no, se questo hanno l'accesso, sì, capito. Tanto ho reso con la VP di cui uno sta collegando e poi zompano lì, ecco. Tutto lì. Ma sono cose vecchie oramai. Ma ad Alfonso non ne vale la pena, un abbonamento Native che costa una miseria, ancora di meno quello Amazon Prime, che adesso c'è un bello sceneggiato, sperando che non lo taglino, mi è sembrato di vedere con l'attore bravo Al Pacino, possibile, non me lo ricordo più, stavo dando la pubblicità, però se poi lo tagliano cosa guardi a fare. Ehi, adesso rilancio Gianni, volevo dire solo di queste serie TV, certe volte per farle piacere a un pubblico più ampio, come possono essere i giovani, mettono degli attori troppo giovani, mettono il solito attore buono, giovane, e guarda i Tudors, no? Ti ricordi come si chiamava Enrico VIII? Quello un po' buzzicone lì con la barba, no? E lì hanno messo un Enrico VIII giovane giovane, belloccio, bello, senza barba, cioè alla fine già la trama storicamente poi non sono corrette, spesso e volentieri mettono dei particolari che storpiano tutta la storia. E poi attori troppo giovani che non somigliano nemmeno lontanamente al vero personaggio, però lo fanno per quello, per farlo piacere al target maggiore, i giovani, perché magari gente più stagionata serie TV non ne segue nemmeno. Capito, molti uomini seguono calcio e calcio e boh, serie TV non le guardano, le donne forse qualcosina, le donne si attaccano alle telenovelas e basta, no, che non è antico, telenovelas come negli anni 80. Riprendi Gianni. Bugiardo. C'è anche Maria De Filippi, uomini e donne. No, guarda, piuttosto non lo so, non so farti il paragone, meglio niente, tutti quei programmi lì, anche C'è posta per te, tutti i pignendi, ma vai, ma è mamma che vive di televisione, si guardate queste menate, ma la mette come sfondo, poi gli chiedi la trama, e beh, cosa sta succedendo, chi stava dicendo cosa, non te lo sa dire, capito? Lo lascia come rumore di fondo, perché in effetti è quello, amico, il programma Uomini e Donne, è rumore di fondo, noise, vai Gianfranco. Guarda, sì, quelli fanno veramente, solo il C2, quel Meyer com'era, Jonathan eccetera eccetera, sì, quello là stava facendo quello là del vampiro, no? Dracula in versione moderna, sempre, non ricordo se era su Netflix o dove. E anche quello l'ho tagliato perché alla fine quella ha chiesto una cifra tale. Trattavi bene va la radio adesso. C'era anche su Viking, che credo abbia fatto una puntata solo quella, no, che hanno ucciso, evidentemente anche lì costava troppo. Ora, va bene adesso la radio? Qua sì, no, ma il discorso è solo stretto di ricezione, probabilmente quello di Gianfranco, tu lì. È come la storia dell'FM, lo sai che molti col K a me in FM erano completamente strappati, completamente, perché sentiva che non era un'emissione FM normale. Poi però attaccando quell'altro omologato come Natalino, magicamente li sentivo bene. E gli apparati sono un mistero, come sono configurati, come sono fatti. Vai Natalino. Infatti. Io già rimpiango un ricevitore che avevo, che ho regalato, sicuro. In casa era bestiale, ma me lo busco un bel ricevitore per ascoltare di tutto, di quelli HF, perché il CR7000 che avevo io mi sembra che non le facesse le HF, quello era bello, lo stesso ricevitore. Però le antenne è quello che valgono, Natalì, perché in città, mamma mia, poi lì sacrificato lì, con un palazzo attaccato all'altro, prendi tanto di quel QRM. Invece dalla macchina, io mi ricordo che con il banale Texun 660 era un bijou da ascoltare. Naturalmente usavo un'antenna taratta, come si chiama? La Proxel, quella con i ponticelli, no, in base alla banda. era 1,85 m circa di lunghezza, poi potevi ritoccarla leggermente in base alle bande. Già lo so, però chi ci va più in macchina? Me ne sto per togliere quella che ho io della 27, proprio perché no, non mi interessa andare in macchina, proprio non ha nessuno più. Cioè, puoi usare anche l'antenna 5 ottavi per ricevere in HF, meno male qualcosa passa, però un QRM, anche in 40 metri un QRM bestiale, mi ricordo con l'857 dovevo mettere l'attenuatore, che naturalmente attenuava, e comunque se c'era QRM alto molti segnali non li sentivi, comunque sia, attenuatore o no, quindi una parte era tagliata fuori dalla ricezione. Vai Gianfranco. Sì, mi sono allontanato un attimo. Sì, se non c'è l'antenna, lì più basso scendi e più antenne ci fuggono. Mentre più in alto sali, più devi stare attento a come tagliarle, perché dal centimetro di qua si passa subito al millimetro e al mezzo millimetro poi andando sempre più su. Sì, Gianni era entrato. Gianni? È un attimo, devo fare l'iniezione, aspetta. Ah, ok. Tutto qui. Sì. Cosa ti volevo dire, Marco? Anzi, ma cosa ha detto Natalia? Ho sentito 7000 ICR. Dice Vittorio. ICR 7000 avevo io. Della ICO. Ma qual è quello che arriva a 2 giga? Non me lo ricordo adesso dove arrivava, c'erano tanti anni fa che l'avevo dato a una persona e poi lui se l'ha venduto, mi ha risaputo, me l'ha sentito. Capita a volte, è così. Sto cercando perché non me lo ricordo, non so se ce l'avevo tanti altri. Grande era, bello, un bel ricevitore era quello che avevo io. Ho capito, quale costa 450 euro, anche 300, cioè. Sì, è vecchio, è vecchio, non è quello che dicevo io, il mio era 7100, quello che arrivava anche in UHF, UHF, eccetera. Sì, sono quelli. Io non c'ho qua invece quello, c'è uno bello, veramente bello, che è ancora più vecchio credo, che è il 71, lo conosci? L'ICR 71. Non lo conosco. Cosa fa quello? Non è uno scanner, è un ricevitore per il cuffio, è carico da 500 a 30, giusti giusti. C'ha poche memorie, credo che ne abbia 20, forse anche di meno. È proprio di quelli, però c'ha un ario, non ti dico niente, proprio bello, chiaro, niente a che vedere con tutta questa accozzaglia di apparecchi, insomma, tra virgolette moderni. Il ricevitore mi è sempre piaciuto, la vita. Almeno quello lo posso tenere perché mi serve solo. Adesso Antonio si fa tante di quelle di quelle segmentali che guarda che deve tenere quello che ti pare. L'importante è che sia diciamo così anche per coso, che non sia attaccato, ecco. Se non è CE magari, è alla prima guerra di secessione, ed è attaccato, è chiaro che te lo tolgono, perché dicono ma lì va con questo appeggio che non serve a niente, così tu se è attaccato a modo di museo puoi avere quello che ti pare. Sì, già lo so. Quant'è che cosa quel 71 che mi stavi dicendo? Il 71 non è idea cosa possa costare. Questi qua usati come il tuo, il 7450, 300, sono sotto le cifre, adesso ti cerco anche il 71. Presidente Marco, l'hai conosciuto il 71 da live? Ho guardato la foto poc'anzi, poi l'ho guardata alle 7000, però all'epoca mi pare il top era il 9000, bello mostruosetto con quel display più o meno utile, non so se sia tubo catodico, non so se esistessero gli LCD all'epoca, i display. Quelli tipo, sembra un... Oh, non so cosa sia. Non l'ho visto. Ma questo sembra un ICR 6000, perché era così stesso. Sì, questo dovrebbe essere un LCD, spero per loro. Quelli sfondo nero, scritte bianche, poi non so se abbia colori, ma sembra monocromatico. Ti ho detto, a meno che non fosse addirittura un tubo cattolico, no, non credo a quelli veli, dai. Oh, il mio costa 163 euro, il problema è che te lo mandano da Israele, e di spedizione sono altri 121 euro. Più la dogana? Sì, arrivando da Israele, quelli minimo te lo smontano. Aspetta che... Sto guardando una foto dell'ICR 9000, non sto sbagliando, no? Il 9000, io vedo il ripreso dall'alto, sembra che lo schermo abbia una bombatura, ma non è che è davvero a tubo cattolico questo schermo? Sì, può darsi che ce n'è uno però a tubo cattolico, ma di quelli proprio, perché era piccolino. Cavolo! Quindi proprio non li facevano gli LCD così grandi. Si vede una curvatura, come se fosse tubo, cavolo. Costava anche un sacco di soldi all'epoca, l'ICR 9000, pare 11 milioni di lire o giù di lì. Può essere, o sto sbagliando io, o quello era il ricetrasmettitore. No, può essere, può. In quell'epoca, tipo caro, VHS, eccetera, quando era ruolo, quando si vendevano, adesso cosa lo so cari, però sono quasi tutti sotto ordinazione, perché non interessa più a nessuno, credo, cioè secondo me non stanno un po' a vedere, non avere ascolto, non sono tanti. Da quando lo so io il perché, lascia perdere. Comunque confermo, tubo cattolico, c'è il ricambio qua, con tutta la circuitazione, caspita, dicevo, e molti non ascoltano più, anche perché forse da quando qualcuno è passato in tetra, il 90% degli ascolti interessanti erano quelli, ne sono pienamente convinto. Infatti, perché lo voglio HS io, perché intanto su quelle bande là non si ascolta più in tubo, ma con i radioamatori, quelli che sono passati in digitale, non li senti più, a meno che tu non abbia un apparato digitale ben configurato da qualcuno che lo sa configurare e poi ricevere. Però sul ponte a 6625 già c'è gente. No, è da un po' anche che c'è gente sul ponte. Può andare a accendere, però se uno non accende non riceve. Vabbè che qua, sai perché Natali lo lascio acceso quasi per giorno? Perché qui non è a batteria. Questo è quello che va a 12 volt, no? L'uniden, quello da tavolo o veicolare, capito? Sì, veicolare o tavolo, insomma, perciò non dipende dalle batterie, lo puoi lasciare tutto il giorno acceso, quando parlano, calma. Gianni, sei entrato? Per quello io lo so da faccio lunedì, me lo porto appresso, vado ad affusare e lo faccio allo spinotto, e così batterie non ne uso. Ah, vabbè, naturalmente io avevo provato con uno dei miei adattatori, no? Alimentatori quelli regolabili no, ma introducevano un QRM almeno in, sulle bande basse, finché sei in VHF VHF, però trovavi un sacco di immagini fantasma, sai, quelle portantine molto rumorosi, quegli alimentatori, quelli regolabili, sai, 3-12, no, con gli scattini che hanno tutti gli spinotti, no, piccolo, grande, 9 volt, quelli là, forse ci voleva un alimentatore schermato, stabilizzato, tutto, filtrato, capito, tipo questi qua delle radio. Chi è avanti? Attacca l'alimentatore. Chi ha chiamato avanti? Ciao Nicola, ben sentito, sei Santiago Otto, il compagno di Natalino, Gianfranco, Gianni che ancora non è rientrato, vediamo se è rientrato. Natalino, lo ascolti Lupo Grigio? Forse tu sì, Gianfranco, vieni avanti comunque, dai. L'ascolto, io l'ascolto a Lupo Grigio, ciao Nicola. Riprendi Gianfranco. Ascolta Lupo Grigio, buonasera. Nicola, prova avanti, vediamo l'ascolto. Lupo Grigio, lo copi Gianfranco? Non ti copia. Infatti neanche lo sento. Devo essere a casa, quindi ho l'antennino, quello là subito. E la volevo chiamare una cosa a Nicola piuttosto, prova a chiederlo tu Marco. Che antenna? Sei quella in gomma oppure la classica telescopica lunga? No, è corta, è corta. Nicola, interrogativo, che antenna stai usando al momento? Allora, una Midland da 50 cm, potrebbe essere una nastro oppure una flex, che sono gomma caricata sempre. Ah sì, allora già, se si trova in quella zona lì dove c'è il fosso, rocio, chiaro, quello di via per passare avanti. Comunque che è molto avvallato, secondo che piano è U. Eia. Ti dicevo Natali, io mi accontentavo anche di quella Texun, che poi è un giocattolo, è una radiolina che riceve AM, SSB in HF, e poi vabbè la radio FM, forse la banda aerea, ma non la considero nemmeno la banda aerea. Poi l'ho venduto puntualmente come tutte le cose, poi i soldi mangiati e me ne ero un po' pentito. Se no quell'altro mi, quello nominato prima in macchina con l'antenna veicolare risonante, un bijou è la ricezione, ma come si fa a tenere una cosa del genere in macchina? Eh? Ti immagini? Già hai capito, no? Farsi beccare un apparecchio amatoriale in macchina. La patente non ce l'ho, infatti ho voluto spurgare tutto lo spurgabile, via, vendere, svendere anzi. Sì, mi hanno anche regalato apparati, se non perdere tempo a vendere. Perché quando a volte ti capita, a me è capitato varie volte di regalare apparati, baracchini, anche quello là te lo ricordi che si programmava un parato. Ma a volte ti capita, gente veramente che pensa che sa che cosa, ti dice, come si dice, guardi, boh, sembra che non sia neanche un regalo, capato quanto non si guarda a bocca, tenendo presente che lui ha pratici tutti in eccellenti condizioni, però quando lo regali sembra quasi che non le stai facendo neanche un piacere. Vabbè, però se non è gradito, dico, se lo usi, cioè, io dico, se lo sfrutti, bene, se no... ma ecco, guarda, a me, la storia di quelle microcamere, mi ricorda un po' quella cosa lì, adesso lì non ci parla di regalo, ci parla di acquisto, no? Ma quando uno paga 39,90€ quelle action cam, come quella che ho io, no? E poi si lamenta, risultati non assolutamente paragonabili alla GoPro, qua, là, poche funzioni. E io gli volevo rispondere che sui giudizi, sui commenti, come si dice, sulle opinioni di, Polonskia di Amazon non può rispondere. Mi aveva scritto, va bene, allora comprati GoPro, però la paghi 400 euro, non 40 euro. C'è gente che ha pretese assurde. Dice, ma il 4K non è 4K reale, è 1080p, lascia desiderare, la stabilizzazione non è come la GoPro. E io gli volevo scrivere, ma non si può. Comprati la GoPro, che problema c'è? Non te la puoi permettere? Allora accontentati, come mi sono accontentato io. Sì, ma leggo io, invece c'è gente che dice ma la scatola non era ben fatta, ma uno rimane un po', come dire, perplesso, perché dice, vabbè, ho capito che è arrivato 2 ore dopo, uno rimane perplesso e dice, ah, ok, perfetto, penso che è arrivato con il giorno dettato, non c'è problema, ma dimmi cosa hai ricevuto almeno, sono proprio una manica, guarda, di... sono persone assurde. Riprendi la tariffa, fai girare per Nicola, io purtroppo oggi non lo sento, lo sapevo perfettamente da Cappuccini, oggi invece proprio nada de nada. Evidentemente non è lì, è da qualche altra parte. Io se me l'avessero regalato, cosa, non gli avrei detto niente, non mi rabbaro subito se me l'avrebbero regalato, a me non mi ha regalato mai niente nessuno, la verità, forse sono io che ho regalato qualcosa. Ah. Qual è la sigla di quel Texon, Marco? Allora, poi rilanciamo per Gianni, adesso dovrebbe aver terminato. Allora, Texun PL Papa Lima 660 PL 660. Poi c'è anche l'880, ma costa un po' di più. Non credo valga la spesa. Vai Gianni. Non è che ne abbiamo molta voglia, non sto tanto bene Marco, riascolto dai, oggi non sono molto in forma, mi ho ordinato la fede adesso, mi ho approfittato che voi stavate parlando, e quando me la porta la mi alza a mangiare, ma non ho molta voglia, non mi sento tutto strano, molto debole. Già, la cosa è ancora troppo recente, già lo sai, no? Dolorante, roba del genere, cioè devi ancora riprenderti. E poi sai com'è lì, bisogna stare sempre in ospedale, praticamente immobilizzato, e quindi anche i muscoli ne risentono. Abbi pazienza un po', mamma farà un casino, vedrete le storie che farà mamma per questi, quando lo opereranno. Marco, i dolori che provi non sono da poco, anche dopo l'operazione, i 3 giorni consecutivi all'operazione, io sono stato male, mi hanno fatto la morfina dai dolori che avevo, stavo gridando, poi si alleviano piano piano, allora sono dolori muscolari, non più delle ossa, sono i muscoli che si stanno riprendendo, io so tutta la storia, perché io me ne sono andato su internet a vedervi l'operazione, a vedervi prima e dopo l'operazione, come bisogna comportarsi, so tutto quanto, c'ho anche un dépliant di tutte le mosse che devo fare, non devo roteare, bisogna camminare a passetti piccoli per girare, ci sono tante cose, però già 2 volte mi è successo quasi che stavo svenendo, mi è venuto un capogiro che non avevo mai provato in vita mia, mi sento debole, adesso piano piano mangeremo un po' di fettine di cavallo perché c'ho anche il ferro basso. Gli spinaci come braccio di ferro. È un po' tutto quello che contiene il ferro, spinaci, carciofi, carne di cavallo, bistecche cavallo addondo. Perché vabbè, quando lo farà mamma, io vedo già nel futuro, no? Dirà, e se avessi saputo che faccia così male, così non l'avrei mai fatto. Vedo già nel futuro. Potrei persino predire i numeri che usciranno al Superenalotto, magari. Marco, non è una passeggiata, questo te lo devo dire, però l'equilibrio lo riacquisti quasi subito, io vabbè sono anche giovane, quindi ho riacquistato subito l'equilibrio, sto camminando anche senza stampella addirittura. Era buono, dai, poi Pazienza ci vuole, come tutte queste cose un po' delicate. Nicola c'è ancora? Nicola non risponde, forse si è distratto un attimo, dai. No, io sto, nel frattempo, guarda, sono le 8 come da manuale, sto cominciando a perdere quota verso questo orario arrabbiocco. Fate girare voi, dai. Gianfranco, ci sei? Sì. Buonasera Gianni. Gianni, ma poi c'è riuscito a fare una cosa? Per andartene? No, mi hanno licenziato, Gianfra. Cosa possiamo fare? Ho finito tutte le fini, tutta la malattia e praticamente tutti i permessi. Solo che noi eravamo, praticamente il personale aveva preso l'agenzia da noi. Questa agenzia hanno arrestato il tipo per diverse cose e siamo ripassati alla ditta dove eravamo. Quindi questo passaggio, ho paura che io abbia diritto di nuovo a tutte le ferie, tutta la malattia e tutte le cose. Adesso mi devo informare. Ma a un certo punto, cacchio, veramente, per quale motivo non ti devo mandare, ho capito. Cioè, ha subito tante cose, tante... non le capisco veramente, a volte sento cose allucinanti. Il loro passaggio è stato questo. Chiamata dal medico del lavoro. Visita al medico del lavoro, ha dichiarato che io sono inidoneo a qualsiasi tipo di lavoro, malgrado la mia professionalità, non posso fare manco lavori inferiori a quello che facevo. Per cui, né superiori né inferiori, per cui poi il licenziamento è automatico. Però ti almeno la segna o allora come si chiama per vivere se vogliono dare. Vabbè, di fame già non muoio lo stesso, Gianfra, una sala malissimo. Io ho una pensioncina, quindi vivo con quella tranquillamente. Quella dicevo, non mi ricordo il nome, assegno di invalidità, quelle cose lì. Però, cacchio, non è che ci butti le... Ma, vabbè, voglio sempre far caglia. Di norma i pubblici mi mandano a caglia, a fare la visita. E anche lì già ne ho sentito di belle cose, ma insomma già lo vedono le certificate. No, vabbè, dai, cambiamo discorso in me. E forse è meglio. Tanto non mi tange, guarda, non mi tange per niente, me lo aspettavo intanto. Anche loro hanno resistito anche troppo, capito? A me me l'ha detto, io guarda, uno come te non lo licenzierei mai perché ha mandato avanti la ditta, l'ha fatta crescere, tu sei uno dei pilastri. Parole. Vabbè, la vita aiuta, però anche loro poi. Però quello che non ti aiuta è questo sistema di inquisizione. Cioè, se ci sono i certificati, se vedono che tu sei entrando e uscendo dall'ospedale, insomma, non sei uno che sta fingendo, capito? Non sei uno che non vuole lavorare. Chiunque ha quelle cose pagherebbe il dito, cioè pagherebbe tagliare una mano per rimanere a lavorare. E invece non lo può fare neanche questo. Quindi non capisco perché questa sorta, diciamo, di cattiveria quasi. E adesso aspetta lunedì che sto telefonando subito a farmi preparare la liquidazione, che devo stare a volere di Vabbè Baedì, che mi preparino subito la liquidazione. Non si può dire neanche prendiamoci la salute, perché quella non c'è, quindi è così. Ma lì, tu sei uno di quelli che ce l'ha fatta, mi sa. Perché? Non sei in pensione? Negativo. C'ho una pensioncina di invalidità e basta. Allegria. Tutti, quindi non è male la serpeggio, così. Yeah. Guarda, meglio la morte. Vabbè, dobbiamo, come si se sentito quello che ha preso quella infezione di quel ragazzino americano che non poteva fare gli esami perché l'assicurazione sanitaria americana non li paga. Per uno che era stato proprio il più disgraziato, che qua in Italia si fanno proprio di routine, le è uscito $1,500, una cosa del genere, a momenti muore più di quello che dalla malattia che si ha preso. Sì, perché lì è così, c'è l'assicurazione che dovrebbe pagare, loro si fanno un'assicurazione a parte per la malattia, perché non è compresa. Sì, sì, anche in Inghilterra è così. Ma l'assicurazione guai. Ma se solo per il mio cane, quando l'ho portato al veterinario per operarlo, €1,500 ho dovuto pagare. Tu pensa in America come si può sì, che funziona anche per i cristiani così. Se non sei assicurato, sei vestito. Però in America c'è più ricchezza, Natalì, c'hanno più soldi. Lavora sì, e chi prende un buono stipendio. Secondo che lavoro fai, guadagni poco e muori di fame anche in America, capito? Poca gente c'è che muore di fame in America. Cazzo, mi dà un abito, come faceva mio zio? Mio zio era Detroit, nel Michigan. Ed era da 18 anni che lavorava. Comprava un abito e lo metteva da parte. Prendeva la macchina fotografica per fare la cavalcata e ce la regalava a lui. Era così, cioè poi i soldi volavano così. Non è così, no. Non è così, conosco tanta gente, perché di lì c'è una cosa che qua non c'è, che se vai sotto i ponti o se vai dentro quelle case di cartone, di lì dicono peggio per te, capito? Non è un in Italia. Non ti aiuta nessuno, Marco, e questo Unident base Vecchia Vittoria 89 e 84? Avete chiamato me, sono in cucina, ero in cucina. Ditemi tutto. Ricevitore Uniden Base, ricevitore scanner, 89 e 84. Ma portatile! È da base, è piccolino però è da base, della Uniden, è costa 89 e 84, solo che non dice che frequenza fa. Perché quello là costa un bel di soldi. Quello. No, ma stiamo parlando di HF o VEU. Ma cosa fa questo? È quello con i piedini rossi, mi. Il modello mi devi dire. Non lo dice il modello. C'è scritto Unident base ricevitore scanner. Capito? È grande quanto un baracchino sicuramente. Oh, quello che ho io fa, guarda, ho le fette di banda qua, allora, 66-88, tipico, no, tutto a salti, 108-137, 137-174, 400-512 e poi 806-960, che ce l'attacchiamo abbondantemente. In America sì, una volta c'era la polizia sugli 800 MHz, poi anche loro credo siano criptati più o meno, e quindi non... quello alla fine serve solo per le bande amatoriali, e forse è giusto che sia così. A me mi piace che tanto lì non c'è più nessuno, bisogna optare per le HF che qualcosa ci farà. Comunque ti dico già, Natalì, che è nuovo, parlo del nuovo, con €89, cioè un portatile Uniden di quelli sempre a salti, come ti ho detto adesso, costa già di più, 90-95, e quelli da tavolo dovrebbero costare di più, cosa ne so io se è un vecchio modello, se è un... non c'è manco il modello, cioè uno non sa cosa sta comprando, non c'è il modello, non c'è la banda che copre, ma chi lo vende, scusa, chi lo vende? Amazon lo vende, il PL60 costa €146,98, €146 costa. Ma come vengono questi affari? Allora, Allora, vabbè, PL660 non è male, e permette di ascoltare tutto 80-40, bande intermedie in SSB, no? Naturalmente, perché se no non l'avrei preso. E mi ci sono divertito, poi come sempre, dopo un iniziale, come dire, entusiasmo, tutto va incalando, vabbè, quello è il problema mio però, con tutte le cose che si acquistano. Ma si può attaccare? Certo, il PL660 ha un'uscita tipo cuffie, ci vuole l'adattatore da SO239 a jack 3.5 mono. Naturalmente ti ho detto, se lo usi in casa, io ho provato a usare in casa nel terrazzino il suo, la long wire che ti danno loro, no? Un cavettino unipolare, no, però prende un rumore in città che non ti dico, altezza di, anche se lo metti in terrazzino fuori dalla finestra, prende un rumore terribile. Ci vuole un'antenna, prima di tutto uno spazio più libero, vedi Belvedere, San Francesco, vedi Scala di Ciocca, vedi anche Porto Torres, va bene, dove abitava Sandro, lì no, sopra Balai, lì prendevi veramente bene, piazza lì, sì, in Misetta, però quando stai proprio a ridosso dei palazzi è un incubo. Marco, un attimino, dai, io lo faccio correre, ti sento tutti cordialmente, vado a vedere il telegiornale, ciao! Io, ciao già, avete parlato in due, dai, riprendi Natalino, Gianfranco deve assolutamente mettere, impiattare per mamma, dai. Vedetto, stai andando via anche tu. No, no, no, sono qua, devo mettere nei piatti per mamma, dai. Ok, ciao, ciao, buona serata, allora, alle prossime. Io ho un ricevitore che oramai dovrebbe essere, non dico vecchiotto, ma insomma, non so se lo fa ancora, che è il Degent, ma devo dire che ne so, in spiaggia, dove sta aperta una bomba, sente chiarissimo, veramente è un piacere ascoltarlo, ed è va tutta la KF in maniera più che decente, per essere una radiolina, abbastanza piccolo, abbastanza antenna telescopica, c'è anche le prese per l'antenna esterna, però non l'ho mai usato perché poi sicuramente andrà in saturazione, mentre invece con quella sua è un gioiellino. Che cos'è che ha detto le cose a quell'ICR71? E chi lo vende, se è possibile sapere? Ma perché non l'ho provato l'ICR71, questo che c'è io, è l'ICR71 e tra l'altro ho visto che c'è anche la versione A, quindi sto togliendo la plastica dal microfono e sentirei il rumore, non capisco perché sia un po' resistito. Figurati come le tengo le cucciame con la plastica. Oh cacchio. Oh Natalie, da non credere, ho fatto un casino nel 4 del mattino. Io ho tolto la plastica, poi ho messo la protezione. E poi butta via tutta la vernice. Cosa avete combinato? Cos'è? A chi è saltata la vernice? Franco, lo devo sia fatto da. Oh, guarda, ho tolto la plastica, c'è presa la plastica, la metto anche sulle strighe, eccetera, su una roba nuova. Ho tolto il microfono, anche la scritta è uscita. Sì, è tutto sferminciato. Questo che sto usando. Da non credere, guarda, roba da matti. Vabbè, già funziona lo stesso. Cristo. Ma veramente. Si sente una ventolina quando attacchi, sente sì, sto usando questo per farlo muovere, perché sennò ci ho avuto la finestra questo, anzi la tua passa all'altro, almeno il microfono è intatto, è uguale, identico, ma la plastica non me ne ha tolto neanche perché sono in spagna, tutto ho perduto, marca un bastardo è diventato questo microfono adesso, dai passo sull'altro. Ah, Antonello. Buonasera, amico. Ciao Antonè, avevo provato a accendere in PMR sul un po' più tardi della telefonata, ma non mi ha risposto nessuno. Sono sceso giù da Dovana un attimo. Sono stato a vestire qui con la parica scesi, capito? Adesso sceso giù a posto mio perché dobbiamo fare il tour per il cane. Se no compro balla con il piano di sotto, si mette a bagliare, fa il lupo. Hai capito? Ehi, ahia. Vediamo un po'. Natalia, ma tu volevi sapere come riceve il Texun in condizioni, diciamo, buone? Condizioni di qua. Allora mi sembra che usarlo qua. No, no, in casa è quasi inutilizzabile, è troppo rumore. Ricevi solo i segnali a fondo scala. Inutile, inutile. Purtroppo anche avendo un apparecchio migliore è rumoroso, se metti una verticale è rumorosa, potrei sentire nomi di polo, ma come fai lì? Come sali sul tetto? È un problema fare tutto lì. Si può usare a 5 ottavi e attenuare al limite, però un bel segnale te li perdi. VCR 71 è America solo, c'ha meno copertura. C'è la versione A e la versione E non vedo, che maledizione. E costa 173 c'è la versione America. Allora Natali, se vuoi avere un'idea di come riceve ti mando un video. Però in condizioni buone, cioè antenna un quarto d'onda terrazza veicolare. E naturalmente il microfono del telefono non rende, però te lo mando lo stesso. Non mi mandare nulla, cosa mi vuoi mandare? È tanto. Allora, questo è America. E sono meno copertura qui. Io volevo trovare la versione E, ma non vedo. Ma meno copertura sulle bande amatoriali o cioè lo volevi a sintonia continua? Le bande radioamatoriali, penso che abbia meno copertura, stava dicendo così. Non credo che sia banda salti, sarà sintonia continua, no? E poi gli americani in realtà avevano bande più larghe, per esempio da 7000, che ne so, i 14 MHz arrivano a noi, 14,2 mi pare, no, anche di più, no, non sto sbagliando io, no, no, meglio non dirmi. Abusivo. Abusivi, bello, bello, mi piace come termine. E allora, il visore non si è abusivo, perlomeno io non so chi sono essere più voi, poi gli altri non lo so. Io sono abusivo. Quello glielo sappiamo che si è abusivo. Era lì, sono 15 anni, no, qui vicino a 18 sì. Tocca il 50-24, quello che l'hanno rubato dalla macchina, me l'ha dovuto regalare mio fratello, nuovo nuovo, era lucido. Io sono un giorno di quelli, non lo usa più nessuno, mi toccai. Grazie, se ti fa un giro dalla barca, te lo porse, qualcuno si è consentato, già lo trovi, ti toccai. A me, vedi, UBC 365, sì, ricevitore Uniden, UBC 365, il codice. Adesso lo cerco. Ma non è meglio il vice trasmettitore che il vice vittore, devi fare il vice vittore, ma... Così quando vengono attorno a controllarmi, direttamente vengono con le manette, capito? Se sto usando questo apparecchio non posso usare niente, né amplificati, nulla. Proprio a chi so, quelli si vengono, mi va tenendo un uomo. Sono già venuti, me l'hanno sequestrato, è tutto un apparecchio omologato, solo perché non era marcato CE, me l'hanno sequestrato. hanno pure fatto fuori. Come ti mazziate in pratica da abbiamo fatto? Vabbè, non devo farci. È capitato a te, abbiamo preso l'Ibila lì al centro storico, già lo sai. A me quando abitavo al centro storico nessuno non mi ha detto niente. Anzi, quando è stata l'antenna che mi ha aiutato Giulio Padre Pio, ho chiesto se disturbavo, mi ha detto di no. Dice, guarda, sei tranquillo, l'antenna non disturba nessuno, parla pure. E invece che quando usavo il coso, il schermo, uscivo tutto a fischi. Avevo preso, se ti ricordi bene, avevo dato l'apparecchio a coso, a Diana Lando. C'era quasi un anno ce l'aveva fatto. E usavo, mi sembra, usavo il Saturn Eco, usavo. Il 2009. Dopodiché quando stavo cambiando casa, ho preso e me l'ho fatto ridare ad Adriano, me lo sono portato via, quando sono arrivato qui dove abita adesso, quindi figurati tu. Ma io ti salvavo, è per quello che mi hanno, quando non l'ho omologato, non ne usavo apparecchi che non potevo usare, con l'omologato ti salvavo lo stesso. Adesso, siccome questo è marcato c'è, è meglio che si chiami amico tecnico. Io glielo ho già detto, chiamatevi il tecnico e fatevi fare l'antenna, perché se intervengono loro vi fanno nubi nubi. A me non mi fanno niente perché sono in regola. Fidarsi siamo andati e non c'è visto più nessuno qua. Però fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Dice questo. Io non mi fido perché sono la multa e 600 euro. Non lo so io. Non mi ricavo. Addirittura accanto a quella multa pagata, sono venuti perché non mi risultava pagata la multa e sono venuti un'altra volta, sono venuti. La Gesù salga, salga, venga, ecco, questa è la multa pagata, ha fatto la fotografia e sono andati, capito? Sono venuti perché non li risultava pagata la multa, dimmi tu. Cosa ci vuoi fare? Quando vado a sentire così bene, quando ho messo 80.000 euro, no, 80.000 euro mi senti a me, ho cercato una cazzata adesso, 80.000 euro è stato tempo fa, ho preso me la sono pagata la multa, una volta che ho cambiato casa, che sono andato via da lì, che erano tutti cibi con tutti i comignari, macchina, eccetera eccetera, poi ci lasciavo un esco per tutti i giorni, gli facevo la colazione, gli invitavo, figurati, me li sono sopportati per quasi 6 mesi, sono pure 7 insomma. All'ultimo io non ce l'ho fatta più, ma mi ha telefonato, mi ha detto se vieni qua, vogliamo parlare, ti devo dire chi è che ti ha denunciato. E chi era? Quella stronza che abitava a fianco a me, capite, che lavorava alle poste. Perché cosa? Perché era gelosa, hai capito? E quindi tutto è finito lì, da quel giorno lì non mi hanno più cercato a me. Vabbè, a me vuol dire che mi è andata male, io devo uscire via. Ci ho rimesso pure l'apparecchio omologato perché non. Ed era una scatola di sedine come questo. Però tu cosa vuoi fare? Anche con l'omologato si rubavo. E vanno. Sono venuti quelli delle scorradio più quelli della polizia, i quattro, lui della polizia e lui delle scorradio. Sì, già ho capito, la polizia postale e l'esco postale qua. Sì, vuol dire che c'era proprio a morte contenata lì. Io lo so quello del primo piano, e in più quei due guasti che c'hai sotto al primo piano, quindi quello che avevo detto la prima volta lì, detto, guarda Natali, ti ho detto guarda, parla con loro, perché se no se puntano non è che gli dite dopo dare tutti i giorni, ho detto. Infatti me lo immaginavo, purtroppo al centro storico se non ti fai rispettare, la pace è quella, hai capito tutto lì? È l'affare di farsi rispettare, perché io volevo fargli addirittura l'antenna a 6 miglia, questi qui sono cazzo ignoranti. maneggiarsi, hanno imparato a maneggiarsi. Però adesso, se loro mi denunciano, quelli lì vengono qua, vedono che apparecchio, che c'ho anche la dichiarazione di conformità dell'apparecchio, che ho comprato nuovo, l'ho pagato una cavolata, un po' il mare, omologato, marcato qui e quindi, ma io poi sono andato lì io alle proposte, sono andato perché una si stava lamentando, no? E mi hanno detto, lui mi dice infatti di controllarsi le antenne perché se dopo che vengono lui sono a fare loro, perché se io sono in regola posso parlare, capito? Io sono con l'apparecchio omologato, un microfono che non mi sta in mano, che mi viene anche male a modulare, che non ci sono abituato, un microfonino piccolino di cui sembra di quei microfonini che usano i portatili UHF, guarda, se lo vedi se non arrivi. Cioè il microfono del Bobby con 40 e 45, che usavano quel tipo di microfonino, che c'è l'up down, che c'è una capsula con condensatore e basta, non c'è altro dentro. Infatti, ma ho visto che mi hanno detto che già esco bene di radio, quindi ne posso fare a meno della musica, così almeno non hanno niente da dire. Originale qua, se c'è una fosse, se vengono qua, guardate cosa sto usando io, già hanno già provato tutto, perché quello che disturbavo io, è nel palo dell'antenna che ho io del televisore, hanno provato anche con la mia televisione, se disturbavo la mia, un cavolo la disturbavo, anche se disturbavo, vuol dire che c'avevo l'antenna marcia, perché non faceva massa, è logico che lo disturbi. Non è che sia antenna marcia, no, è l'amplificatore che usano lì al centro storico. Gli amplificatori che comprano in qualche negozio, che non sono filtrati, senti per forza. Ricordati che tu c'hai da radiale all'antenna di V, che ci sono, ce ne sono tre, addirittura ti hanno aggiunto l'altra, se guardi bene, che l'ho vista l'altro giorno. Cioè una nuova di antenna, ce l'hai alla distanza minimo da radiale almeno 70-80 cm, non di più. Quindi posso? Sì. Si arrangiano, se io li distruggo si arrangiano, perché io sono in regola, la tolgano l'antenna e se la fanno nuova, la mia è nuova, sono amplificatore, se non li posso usare delle vite nulla, perché hanno provato loro addirittura con l'MDC4, mi hanno schiacciato, non gli faccio niente al mio televisore, e perché è vivo di entrare. Ma gli entravo perché serve l'antenna marcia, oltre che sono troppo vicine, però al mio televisore non gli faccio niente, c'ho un amplificatore, c'ho tutto e non gli faccio nulla altro. Hanno provato, vedimi, schiacciavano e guardavano a vedere il televisore se lo disturbavo, poi con l'analizzatore di spesso sono venuti, quello portatile, hanno alzato l'antenna e mi hanno controllato a vedere se avevo scuri e queste cose qua, nulla. Ebbene, io lo credo. Avanti Marco, ma c'era anche cosa, che non mi ricordo il nome, Franco Albato, se non ricordo male, Franco ci sei? Sì, stavo guardando un microfono. Ti stai veleggiando il microfono? Hai fatto la plastica quella che riveste il microfono e hai tolto tutta la valigia, se lo stavi riveggiando dal mare? No, ho fatto riveggiando il coso sopra la plastica, sono quelli che mettono la plastica sui schermi di telefonino per non danneggiarli. Così era questo, ovviamente io non l'ho mai tolta e quindi adesso sono andato, ho visto che era leggermente inclinata, ho detto ma c'è qualche studio, non lo so, qualche anno di più. L'ho tolta e mi è rimasto sotto in mano, c'è tutto, vernice, fritte. tutto qua, dopo il pennarello, se lo ripetisce a farlo per la qua, sono tutto il cane più di prima. Sempre che non credo, dovresti farlo fare da un coso, cioè, dove fanno delle scritte, eccetera, eccetera, per micciano, adesso mi ricordo come si chiama, vabbè, ma guardi Marco. Quello americano, sembrava quello, invece non è quello, è MPG questo. Mi sa che avevo parlato assieme, Marco, riprendi. Sì, no, no, vi volevo dire, per dovere di cronaca, noi avevamo messo, vabbè, con la mia avevo cambiato l'antenna, gli elementi, no, antenna VHF, VHF, miscelatore, il cavo, tutto, no. Avevo provato, per curiosità, a mettere un amplificatore d'antenna di quelli cinesi, per vedere se aumentava il numero di canali ricevuti. Li avevamo già sintonizzati, abbiamo provato a risintonizzare con l'amplificatore, però i canali erano quelli, cioè con o senza, alla fine la ricezione è qua abbastanza buona, Monteoro è bene o male, è proprio a vista. E vabbè, ma non è quello il punto. Volevo dire che con l'amplificatore antenna cinese io avevo provato a modulare, no? Per vedere se facevo TVI, no? Senza filtro, senza, anzi con baracchini anche un po' più pompati, niente. Non facevo TVI in nessun modo. Cioè, tu immaginati in che condizioni devono avere le antenne i vicini di Natalino per fare TVI lui. È una cosa incredibile. Io stavo cercando di fare TVI, persino col lineare ho provato. Niente. Non facevo un quadratino, nulla, non riuscivo a farmi TVI. E Natalino con l'omologato gli spariva lo schermo a quelli, immaginati tu. Vai Gianfranco. E gli stava c'era sul testo lì, neanche la massa non ho ragazzo. Solo ne approfitto per me già tardi. Vi lascio buona serata a tutti e alle prossime c'è Antonello, ciao Natalino. Ciao Marco, non mangiare troppo, mi raccomando a colazione. Ciao Gianfranco, dai, sentiamo le prossime, dai, meno male, cercherò di accendere, poi quando ci sentiremo ti volevo chiedere una cosa, non ho il foglio sotto mano, quindi adesso non viene bene. Sicuramente in materia tu sei più ferrato, mi sai dire a cosa corrispondono le voci, ma ne riparleremo, dai. Dai, per i saluti Antonello, vai. Sì, ciao Franco, ci sentiamo, stammi bene, buon comiti, buon tutto, alle prossime. Avanti Natalino. Ok, ciao Gianfranco, alle prossime, buon proseguo. Riprendi, Marco. Quindi Natali, capite il discorso, io con l'amplificatore antenna cinese, che poi ho tolto perché ho detto inutile lasciarlo se i canali sono gli stessi e con la stessa qualità, no? Però te l'ho detto, ho provato con l'omologato, ho provato col diversamente omologato a farmi TVI, con lineare, niente, non c'era verso di farmi TVI, di disturbarmi la TV. E quindi i tuoi vicini devono avere impianti antenne abbastanza agghiaccianti, penso io. A me comunque io sono andato là al loro ufficio e mi hanno detto quello che ho detto a loro, mi hanno detto che prima di chiamare a loro è meglio che vi fate controllare le antenne, perché io sono in regola, se intervengono loro sono affari vostri, quindi oltre il danno anche la beffa, perché se devono rifare le antenne poi si pagano la multa. Eia, però Natalia, è 2 anni che ne parliamo di questa cosa, cioè se questi non lo capiscono che di aggiustarsi l'antenna, affari loro, non è un problema tuo, tu devi modulare e basta, tu paghi la tassa. Va bene, dai. Ma però non va Natalino, Antonè, per caso ci hai acceso qualcosa anche dall'altra parte? Per provare se arrivo. Sì, mi hai acceso di là. Lui domani mi compro con l'aggeggio, mi compro. Voglio provare di là, voglio provare. vedi che avevi. Basta ma vivi, se, se la vedi vuoi sì, Marco. Parla un po'. Se stai parlando non arrivi. Non è normale però. Manco qua. Vedi che arrivi allora, parla un po'. Parla. Ah, non parli? Parla! No, là, là, parla là. Ho parlato là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ehi, già arrivi bene, tu arrivi benissimo. Qua non arriva ancora, buco. Un pochino più basso, sì, vabbè, c'ho tutto attaccato uno a fianco all'altro, quindi magari per quello. Ehi, da. Ehi, pochi sono... Due, pochi, pochi. Comunque sai che sembrano migliorati, Antone, gli 888, sembrano migliorati rispetto a quelli appena usciti. Meglio così. Adesso guarda, appena si libero, andiamo assieme, mi voglio prendere quei due apparecchi che ti ho detto, con la cuffia. E poi facciamo la prova, vediamo in che frequenza sono, magari sono fortunato e mi ritrovo in questa frequenza qua a me, dove c'erano già programmati gli altri. Io voglio pigliare quei due, intanto sono quanto so. Mi sembra sono intorno ai 40 euro, se la piglia il culo, almeno ce li ho. Scusami, Natalie, scusa, pazienza un attimo. O stai chiudendo? Aspetta, non ho capito. Vai, Natalie. Già chiuso. Allora, no, Antone, cioè, 19 euro l'uno, 39, 2. E tu da robot trader li paghi 20 euro e 99, 21 euro, 10 euro e 50 l'uno. Al cinese li paghi il doppio qua, che senso ha? Allora adesso ci abbiamo anche il cavetto per programmarli. Ma scusa, dottor, mi sono di me, vengo a mangiare al cane, appunto. È passato Natalino, dai, vai Antonè, dimmi tutto. Ho detto che sto parlando del DMO meglio. Ma sulla scatola io me la sono guardata la foto che avevo fatto, sulla scatola io DMR non l'ho visto scritto, ti parlo di muraia e poi DMR c'è la configurazione, dubito che siano già configurati di fabbrica, li mettono frequenze campione a caso, lo sai, e la programmazione anche nella sezione digitale credo che sia casuale, casericcia, porchedina, come vuoi definire. Ecco perché io volevo saperne qualcosa di più della sezione digitale, ci sono voci che io non conosco. Comunque ricordati che se li prendi sono tutti su 462, non va bene lì, questa roba ministeriale lì, meglio non metterci in mano. Ma ci vuole il capo per programmarli, io ne ho due capi qua. Antone, sai per caso se vendono quei PMR omologati e dove li vendo? Perché io non sono riuscito a trovare. No, PMR omologati non lo so dove li vendono, la verità. Però ci sono, li vendono, la GBC ce li aveva. I PMR omologati, però su altri posti mi sembrano non averne visti. Allora, poi su i cinesi c'hanno quelli, gli 888 c'hanno da programmare, che sono 8 canali, li puoi fare 8 canali normali, 8 canali LPD come li ho avuti io, e poi e poi nient'altro, perché ci siamo solamente con la roba lì. Vabbè, normalmente li forniscono con la frequenza 462 125, quindi figurati tu. Non va bene, no, bisogna riprogrammarli. Io li ho riprogrammati, sì, li puoi mettere come ce l'avevo io, me lo va fatti Marco, 8 canali PMR e 8 LPD e li usavo così, uscivano bene, perché mi uscivano veramente bene, come dicevo io. Io a Camarino, e gli due, la coppia. Le avevo comprate dei cinesi, in via Napoli, figurati, adesso non ce li ha più quello. Le avevo comprati, se non mi ricordo male, 20 euro, una cosa del genere. Ce li ha muraglia, mi sembra. No, li avevo comprati in via Napoli, li ho visti lì, da un cinese, poi non l'ha ordinato. Gli stessi portatili, poi ho visto la muraglia quando sono andato io, un po' di tempo dopo, sono entrato dentro e ho visto quei portatili lì, capito? La coppia, c'era la vendita singola oppure la coppia, due assieme. Sono belli comunque, non sono brutti, anche se non sono omologati, che cazzo te ne frega, non ho capito. Sono sempre portatili, li tiri da una parte conservati e c'hai otto canali PMR, ti fai mettere otto canali LPD e te li porti appresso, uno tu lo usi tu, l'altro lo usa tua moglie, a posto di usare il telefono, se ti deve chiamare ti chiama per dire che e mi parlate a vicenda, come lo usavo io, li usavo per fare antenne, erano perfetti, aperta, perfetti. Poi li avevo venduti perché c'ho già i cosi, gli altri due portatili, che c'ha il display, più gli altri due, io ho girato, questo mi sono messi qua, sono le batterie e ce li devo buttare. Allora, questo li avevo venduti. Sì, ma io devo avere quelli omologati, perché mi interessano quelli. Almeno una coppia di quelli omologati, di libro più scadenti. Tanto per avvirti. Io devo cercare gli occhi tocchi, si chiamano quelli, ci sono, PMR omologati, gli occhi tocchi. Posso lavorare 4 watt, 5 watt, ritrovi un watt e mezzo, quello che è, hai pazienza. Antonio, mi sta venendo un atroce dubbio. Dimmi. Dunque, tu questi digitali li hai visti da muraglia, no? Ma erano senza tastiera, senza display, come gli 888? Esatto, sì. E magari avevano il PTT arancione, i tastini laterali arancioni. No, perché sto vedendo quel modello che ho visto anch'io, ce n'erano tre. C'era l'888 singolo, poi l'888 doppio con un altro nome, con una marca GGE. Poi ce n'era un altro modello chiamato Cry Light, però io sto leggendo sull'etichetta e qua ci si è cascato alla grande. C'è scritto un sistema di elaborazione dei segnali digitali. Quello non vuol dire che sia digitale, quello è il DSP, Digital Signal Processor, che hanno anche gli 888. Attenzione Antonio, non fare quell'errore. No, se prendo, prendo DMR, se c'è scritto DMR lo prendo, se no se la pigli in culo, scusa, a un certo punto. A me il DSP non me ne frega niente. Solo che piglio gli 888 normali e va a far cuffia a un certo punto. Ehi, a meno che non abbiano altri modelli nascosti, però sto leggendo adesso proprio il modello Crylight, no, E90. Dice un sistema di, naturalmente tradotto dal cinese, un sistema di elaborazione dei segnali digitali. E quello so che è il DSP, il Digital Signal Processor. Sì, c'è anche il Baofeng, tutti i Baobao ce l'hanno, però non vuol dire che sia digitale. No, infatti bisogna stare molto attenti quando si acquista. Anche per il cinese già non capisce l'italiano. Poi ti attacca il coronavirus, ti spiega le cose male, capito? E magari fai un acquisto sbagliato. No, al limite, se quelli sono così, quelli normali, si va via in culo. Ma su altri servizi ci sono, c'è scritto, ho visto che i portate di DMR, se lo dirà quello, ma fa un cuffio. A un certo punto, mi vendono la coppia, non è che costino molto. Ma io piglio e hai capito, più si programmano, non è quello il problema. Dato per quello che costano. Nathalie, stavo guardando su Amazon, mi è venuto un colpo, stavo guardando i Brondi, no? Ho detto quale può essere un modello Brondi di produzione attuale omologatissimo, no? Allora te lo dico, allora Brondi FX490, modello attuale, omologatissimo. risposta che qua non si capisce se sono due o uno. Ah, coppia, coppia, però capo de cazzo, una coppia di schifosissimi PMR omologati, 72 euro, ma non ti nandi. Ma non c'era quel famoso PMR, te lo ricordi con l'antenino già agganciato dietro, il magnetico? Si prende quello, la carino. Non è omologato, non è omologato. Il ministero aveva emesso una nota specificando che quella marca modello, quello lì, cioè secondo loro deve essere portatile, anche se l'antenna e il cavo è saldato dentro, deve essere portatile, non so perché, cioè non c'entra il cavo sia saldato, l'antenna comunque è non sostituibile. Hanno detto che proprio da una nota, adesso non la vado a cercare perché non la trovo, però cioè, li hanno interrogati sul parere e hanno detto che non è omologato. Poi, a Natalino servono esclusivamente omologati, sua scelta. D'altronde anch'io ce li ho omologati, Antonè, e quando esci fuori non ti puoi portare bao bao, merata del genere, ci vuole l'omologato. Tu dici non capita, e in caso che capiti qualcuno competente, e poi le multe sono salate, eh? Vai Natalino. A me se non ce l'ho omologato, mi fanno l'uovo nuovo. Antonè, vabbè, tu eri più spregiudicato, diciamo, no? Quando scendevamo a quel bar lì, soltanto di, non te lo dico qua. Stato di faccia di culo, glielo credo. Ascoltando i carabinieri, ma non vedo cosa fa, ragazzi, adesso mi ha rotto con lui, ricordo che coso, Piuccio, che era un poliziotto in pensione, che mi ha detto, un giorno era ubriaco, mi ha detto, ti faccio arrestare, mi ha detto, tu questa cosa non la puoi usare, ha detto, ascolta, fa la cosa, ha detto guarda che detto, da qui a là, prendi la ricosa, avete pure la faccia in culo, ha detto, così gli ho risposto. Appiato si è incazzato e si è andato a casa sua, non voglio dirti la casa, mi ha chiesto scusa, scusami, sono lo sbronzo, ha detto, fregate più, gli ho detto, ti ho lasciato pedati, è rimasto, ha detto. Ma le convieni, no? Che può essere controproducente, no? Con tanto di selettive e assortite che suonavano, la gente che si girava un po', ne convieni, sì. Ma certo, non è che non mi ha dato male nessuno, cioè che Pinuccio è cosa, è prima di Gabriele, quel tipo prima di Gabriele, che ci aveva il bar, hai capito? E ho mandato a far culo tutti quanti. E io da tanto non mi è mai successo niente, quindi è a posto. Mi ha detto, guarda che io ho detto, e guarda che la concessione, ho detto, fa la colla, ho detto. Vedi la rincosa, mi ha detto, da qui all'aria l'ha giunto. Allora è stato zitto. Non ha parlato più, non ha più rotto le balle. E io, ma queste cose le ho ascoltate in cuffia, certo che me le ascolti in cuffietto. Se a volte ho detto, la cuffia, detto, si stacca, non è colpa mia, la risposta. Persino io non sono arrivato a tanto. Vai Natalì. Quella me la portavate al centro storico, se ti ricordi bene, è importante. Quindi figurati tu. Io sono non mi ero solo a balle a me. Perlomeno. Forse Natalino ha chiuso, vista l'ora, che sono le 9:05, caspita, oggi è tutto filmami, mi pare che ci sia un film da 5 stelle, quello Anna History X, quello dei nazi, poi c'è Barbara D'Urso, nuda, live, e magari... Non so, sapo piare in culo Barbara D'Urso, vai. Meglio niente, cazzo, una persona che è viscida come quella, guarda. Non ho capito come fa la guarda. Cioè andare lì a presentarsi, a raccontare le cazzate di casa loro lì, cazzo. E lì ne approfitta, cazzo, per fare audience, cazzo. E altri invece di mancanti, visto, capito? Ma noi si è pagato per dire coglionate, e a voi fanno finta di più farsi, capito? Però con Sgabbi l'abbiamo andato un pochettino male, Barbara D'Urso, perché Sgabbi gli ha detto che era una gran testa di cazzo, gli ha detto che una gran cogliona, stava per dire bagaccia, ma non gli ha detto. Vabbè, programmi, lo sappiamo, no? Bisticci organizzati, ormai sta così la TV. Però, tolto... il modo di fare di Barbara D'Urso, le faccette, tutto. Vabbè, dai, non scendiamo dallo scabroso, dai. Natalino, ci sei, io, se no chiudiamo tutti i miei, ci andiamo a vedere il film. Va bene. E tu, Antone, vabbè, per il resto a posto, dico, a parte la quella strampata. Sì, sì, no, tutto il resto a posto, grazie a Dio. E stamattina sono andato a Simone, gli ho consegnato il telefono, e gli ho fatto programmare, come cavolo si chiama, un programma, si chiama, aspetta, si vede tutti i programmi, anche da Zoom si vede, il telefonino. Un programma è scaricato un amico l'altra notte, lì al circolo. Sono andato al circolo, mi ha fatto scaricare, che così si guarda lì, la TV nel telefono si guarda. Perché lì la TV non piglia un cazzo, ma è il tavolo di posto dove va ricoverata, capito? E quindi a me c'è un po' di compagnia. Quindi stava cambiando, stamattina lo stesso, tranquilla, adesso devo fare un po' di riabilitazione, dopodiché la manderanno a casa. Io sono più tranquillo anch'io, più che altro, cioè, me l'ho stressato, capito? Me più che altro mi ha ammazzato quella storia che ti ho detto, capito? Vedere una persona che dopo 5 minuti, cazzo, che gli succede così e ti immagini che sia quello che non sia, capito? E quindi sono andato scioccato, da lì l'ho presa male, 2 giorni dopo mi ha massacrato. Vabbè, il corpo che ho preso, sono stato fortunato, grazie a Dio. E sto bene, tutto il resto sto bene. Io credo che è uno shock, ci mancherebbe. Vabbè, dai, sai che la rimettono a posto adesso. Mi ascolta, il programma potrebbe essere Kodi, K-O-D-I, e serve vedere i siti di streaming. Poi non so se bisogna pagare o non pagare i normali abbonamenti. L'importante è non andare su abbonamenti strani, pirata, perché hanno fatto già il giro di vite, mi pare, un paio di volte. E insomma, da, stanno cominciando a rastellare fondi, si devono rifare, lo Stato si deve rifare dei redditi di cittadinanza, è stato spendendo miliardi. Allora, mi sembra che TV Stat, no, Top Delta Pro mi sembra si chiama, una cosa del genere. Non è VLC per lo streaming, no, non è Kodi. Aspetta che cerco sull'applicazione per vedere cosa c'è per lo streaming. Ha configurato. Cosa, Natale, dimmi? Aspetta che è Kodi, è un casino a configurarlo. Io non me l'ho messo per quello. Era un casotto, voleva configurato ed è un macello. Comunque, Natale, questi TV box cinesi, no, che hanno un sistema operativo Android, credo, ruotato, no, con i diritti di amministratore, fanno cose ambigue, un po' ambigue, vabbè, si sapeva, però, per esempio, quando l'ho collegato con lo smartphone, ha fatto uno scambio di file non autorizzato da me, cioè mi sono trovato dei file di installazione di Kodi, quella roba lì sul cellulare, poi si connette all'hotspot wifi senza che io abbia dato il consenso al TV box e chissà cos'altro fa. Capito, sono un po' ambigui questi cinesi economici. Se invece prendi roba un po' più seria, magari sono più meno piratosi, meno oscuri nel funzionamento. Sto uscendo, sì? Stai uscendo. Che tutto mi sembra che si chiama questo sito qua, se non mi ricordo male. Si vedono tutti i programmi, c'è solo almeno 80, c'è tutto da Zoom, invece tutto sport, tutti i canali sportivi, canale 5, canale 2, 3, 4, canale 1, canale 2, 3, canale 3, 4, cioè non 3, 4, canale 4, canale 5, la 7, ci sono tutti in pratica, solo che se non c'è il segnale buono, capito, dal ripetitore vicino non lo vedo a tratti, capito, e sicuro è dentro quella specie di mausoleo, cazzo, dove ci sono i muri della tratta, però quel baracchino c'era lì, non so, altro. Quindi se, a volte se c'è propagazione, vedere tranquillamente bene, se non vedo a tratti. Antonè, come hai detto che si chiamava quel programma, come credi di ricordare, Core o cosa mi hai detto? No, TV Delta Pro. Ah, TV Delta Pro, adesso cerco, sono curioso. Sì, c'è Codi, Core, Viazze, un bel di roba, chissà poi se roba ambigua, Va bene, adesso guardo. TV Top Delta Pro, mi sembra che, se non ricordo male, esce un affare verde a metà e dall'altra parte arancione, lo stemma, capito? Allora, mi compare il primo è Delta TV, però non Pro. Ce ne sono tante, poi queste applicazioni certe volte scoprono che sono imbottite di bloatware e altre cose terribili. E vabbè, dai. Ok, TV Top Delta Pro, poi al limite lì, quando ci vediamo, basta che metti Bluetooth e te lo scarichi dal telefonino mio, così te lo programmi dal telefonino tuo. No, TV Tap me lo ricordo, l'avevo anche tolto perché non me ne facevo niente anche di tutti quei canali di calcio, poi ne ho cominciato, Sky ha fatto togliere i suoi canali, giustamente perché se no uno li guardava a sbatto, con l'altro ha fatto togliere i canali, alla fine hanno tolto tutto, non si vedeva Iris di Mediaset, insomma mi sono buriato e l'ho tolto, non ne metto più di quella roba lì. Quello lì c'è tutto, c'è in pratica. Vabbè, comunque a me va bene, peccato per sino, perché a me non si guarda dato che la TV di dentro non prende, a me se la guarda col telefonino, capito? Solo per quello l'ho lasciato. Anzi, adesso a marzo mi piglio come si chiama, me lo compro, perché gli anni fa l'ho comprato a miei nipoti, era rotto dopo 3 mesi, figurati. Mi prendo un tablet e mi scarico quel programma lì nel tablet, così almeno se dovesse ricapitare una cosa del genere si guarda la TV direttamente dal tablet, capito? Tutto lì. A questo guarda il telefonino che ti viene un pochettino male. Invece col tablet c'è lo schermo più grande, ma fa cuffia, ci mette la carta del telefonino mio e lo puoi usare anche come telefono il tablet, capito? Ehi, sto guardando, c'è un caos di applicazioni qua e di qua, no? Però non TV italiane, mi soffre per i canali TV, e che certe sono invasive. Vediamo un po', vedi anche questa, una a caso ne ho presa l'applicazione, dice, e questa dice, ma appunto, dice, prima gli ho dato 5 stelle, da un paio di giorni è sparita anche LA7, sì, sì, perché non, magari non hanno i permessi per mandare le TV via streaming, quindi all'inizio ci sono tutti i canali, poi cominciano a sparire, giustamente, perché vedi cose piratose, sta roba cinese, sta roba. Va bene, dai, io getto la spugna. Signori, sentiamo le migliori occasioni, dai, adesso mi addormenterò in poltrona con la TV e sentiamo le prossime. Io che era, chiudo anch'io, così c'ho uno scoop, ma scoopimi, sono mi dietro, c'ho dietro la sedia, è sdraiato. Adesso mi metto a letto e così mi vado a televisore qui da Calduccio. Ci sentiamo domani al limite, dai. Tanto domani mattina sono fuori e domani sera e boh, non lo so, adesso vediamo cosa devo fare. Non ho ancora programmato niente. Vediamo, vediamo. Ok, dai, correti anche per me, ciao a tutti, alle prossime. Ehi, ciao Antonello, ciao Natalino, là, ci sentiamo alle prossime, ciao a tutti, ciao ciao ciao. Ciao ciao.